Sami, insieme a tanti giovani di Attuani, quest'area a sud delle colline di Hebron, Al-Khalil per i palestinesi, sono nell'area C degli accordi di Oslo, quindi un'area che è interamente controllata dai soldati e dalla polizia israeliana. Intorno al villaggio di Attuani, che è quello di Sami, ci sono diverse colonie che si sono insediate negli anni a partire dall'occupazione del 67. Soprattutto accanto al villaggio di Attuani c'è un outpost, cioè quelle colonie che non sono neppure legalizzate da Israele, piena in realtà di ragazzi giovani molto fanatici, fondamentalisti, nazionalisti, che attaccano costantemente il villaggio. Nel piano poi dello sviluppo delle colonie c'è questo piano di congiungere, come fanno dappertutto del resto, una colonia sulla destra e l'altra sulla sinistra, di connetterle. In mezzo a quella connessione c'è un'area, un territorio che si chiama Sarura, che era un vecchio villaggio evacuato dai soldati nel 99 e i contadini non erano più tornati. E quindi i ragazzi di Attuani, giovani che si chiamano Youth of Sumud, giovani della resilienza, hanno ripreso quel posto parlando con i contadini proprietari della terra per farlo rinascere, per impedire soprattutto la costruzione delle colonie. Ma Sami è stato arrestato questa volta, perché anche altre volte è stato arrestato, perché ha partecipato ad una manifestazione, anzi ha organizzato anche la manifestazione ad Al-Rakis, tra Al-Rakis e Attuani, dove c'è questo villaggio del giovane che ha 23 anni, Arun, che per difendere l'elettrogeno per l'elettricità che i soldati stavano confiscando è stato ferito da una pallottola sparata da una soldatessa israeliana e si trova all'ospedale in pericolo di vita, ma anche soprattutto paralizzato. Quindi hanno manifestato i giovani insieme a tantissimi, peraltro, attivisti israeliani per protestare per la sparatoria, per l'assassinio praticamente di Arun. Ora in carcere, la polizia continua a portare nuove prove al giudice, quindi stanno posticipando le udienze e anche il verdetto per diversi giorni. Ecco, io le farei una domanda proprio sulle udienze, su come stanno andando. Quindi appunto era prevista inizialmente per ieri, ce ne sono già state due. E le chiederei un po' un aggiornamento in questo senso. Ma in realtà l'udienza è una corte militare tratta ad Ofer, è stata fatta non permettendo per esempio nei fratelli, nei parenti di entrare, ma solo al padre di entrare all'udienza. È stata spostata più in là perché appunto la polizia ha richiesto al giudice di spostarla e di mantenere ancora in carcere Sami perché loro avevano nuove prove nei suoi confronti. Le accuse non esistono, cioè sono accuse sì di partecipazione a manifestazione non autorizzata, di partecipazione in un luogo considerato un luogo militare, però non possono fare accuse di diverso tipo a Sami perché per esempio nessuno mai in quel villaggio, in qualsiasi manifestazione, io vado lì dal 1999, nessuno ha mai tirato un sasso, perché proprio è stata una scelta del Comitato Popolare, delle donne, degli uomini attuali, di attuare questa forma di resilienza, di resistenza. Stiamo sul nostro territorio, non ci facciamo evacuare, non ci facciamo cacciare, però non diamogli corda, cioè non diamogli motivo per arrestarci. Naturalmente Israele ha più paura di questa resistenza non violenta che non se qualcuno spara, perché se qualcuno spara può far la vittima e possono sempre dire i palestinesi. In questo caso no, non hanno nessuna giustificazione, pare chiaro quanto sia violenta l'occupazione militare e quanta terra si rubi ai palestinesi con l'insediamento dei coloni. Domani mattina speriamo sia l'ultima udienza, speriamo che Sami sia liberato, ma in realtà stiamo pensando che ci saranno sicuramente delle ritorsioni. Comunque oggi hanno già interrogato un altro ragazzo di Sarura e di Attuani, quindi il significato è chiaro, vogliono spegnere questa forma di resistenza.